Tempo di sport. Buongiorno, rombano i motori in questa domenica di giugno. Ci siamo divertiti con la MotoGP che adesso andremo a raccontarvi nel gelo di Silverstone. Poi alle 19 il Gran Premio del Canada. Intanto corre la Superbike, si è conclusa la 24 ore di Le Mans e magari qualcosa mi scordo pure in questo programma ricchissimo. Intanto un saluto da Dario Ricci, un buon pomeriggio anche da Laura Vanossi in redazione, da Valeria Bernardi in regia e un saluto soprattutto a Mario Poltroni. Buonasera a tutti. Mario, sdraiato sul divano, penso che oggi giornata lunga, eh? Sì, giornata lunga e con l'attesa finale che poco fa sentivo a Montreal, sta piovendo. Tanto perché quest'anno poi veramente sì. Mondiali caratterizzati dalla pioggia, in tutti. Infatti. Beh, comunque diciamo, fra tutto quello che tu hai già citato con estrema efficienza e correttezza, partiamo dalle moto. Partiamo dalle moto perché gran pioggia, gran freddo a Silverstone, terzo vittorio consecutivo, quarto della stagione per Casey Stoner, che conquista anche la testa del mondiale, davanti a un ottimo Dovizioso che duella con Simoncelli finché Simoncelli rimane in piedi, perché poi va per le terre, scivola, già era caduto in precedenza Lorenzo, terzo posto per l'eroico Edwards con una clavicola rotta e sesto Valentino Rossi che trascina quasi a spinta la sua Ducati al traguardo. Questo è il rapido riassunto, Mario, però da te vorrei subito capire qual è il dato vero importante della giornata. Diciamo che la caduta di Lorenzo naturalmente lo ha messo abbastanza in crisi nei confronti di Stoner, perché Stoner sta andando più forte, ha la moto superiore a quella di Lorenzo e quindi mentre sono partiti con Lorenzo in vantaggio di 7 punti, adesso è indietro di 18. Quindi è un campionato che sta andando a favore di Stoner, è chiaro, mancano ancora molte gare quindi non si possono fare pronostici finali, però diciamo che Stoner in questo momento sta andando fortissimo, non fa errori, andando così e vedendo quali sono i risultati della Ducati, poi parliamo di Valentino, si capisce che Stoner è veramente fuori classe, perché se è riuscito con la Ducati a fare quello che ha fatto e invece adesso Valentino fa tutta questa fatica per recuperarla, e bisogna dire che in quella moto effettivamente è molto difficile da guidare. Non facciamo delle valutazioni sulle prestazioni, ma diciamo Valentino ha dei grandi problemi nelle dichiarazioni che ha fatto anche dopo corsa, insomma si capisce che non sa che strada prendere, e anche Vittoriano Guareschi, che è il team manager ed è soprattutto il collaudatore della Ducati, vedo che annaspa, molleggiano eccetera, quindi questo è un problema che oltretutto ha un altro pizzico di curiosità nel fatto che però con la stessa moto non ufficiale Aiden è riuscito a arrivare quarto, quindi non è proprio che la Ducati non vada, con questo non voglio assolutamente accusare Valentino di andare piano, diciamo che Valentino però ha delle grandi difficoltà a capire questa moto che indiscutibilmente è atipica rispetto alle altre. Sicuramente il mix Valentino-Ducati finora si sta rivelando un impasto molto complesso. Mi è piaciuto invece molto Dovizioso per come ha tenuto testa a Simoncelli, e ti farei sentire subito anche le sue prime dichiarazioni subito dopo il traguardo. Diciamo che in prova ci danno tutti del gran gas e danno sempre il 100%, non è il mio stile, il mio carattere, però in gara ci siamo. Ho fatto una gara bellissima perché le condizioni erano veramente al limite, infatti ci sono caduti tanti, era molto difficile, c'erano molte pozzanghere, quindi era difficile perdere il dietro ma anche il davanti in frenata, quindi risultati importantissimi in una condizione difficile, è importante in un campionato di 18 gare. Ecco, il bello di questa dichiarazione di Andrea Dovizioso è proprio nella coda, come spesso succede, perché risultato importantissimo in un campionato ancora lungo, insomma, il bresciano ci crede. Infatti, ma ti dirò, è molto importante perché fino a questa gara, non dimentichiamoci che Dovizioso è il terzo pilota Honda, è riuscito insomma, con molta fatica a entrare nel team ufficiale. E la mancanza di Pedrosa adesso gli offre la possibilità di fare qualcosa di molto valido. Nelle ultime gare non aveva dato la sensazione di padroneggiare la Honda come invece ha fatto Simoncelli, il quale però oggi è caduto. Diciamo che non è stato forse tanto un errore suo, perché è una caduta tipo quella di Lorenzo, cioè proprio di una perdita di aderenza prima ancora di cominciare, si può dire, la frenata, accennando la curva, per cui le condizioni della pista erano veramente estremamente negative. Questo è una nota di merito per Stoner, ma soprattutto per Dovizioso, che ha dovuto battagliare per parecchio tempo con Simoncelli, che sappiamo non è uno tenero. Ah no, no, è stato un bel duello proprio finché Simoncelli è rimasto in piedi, è stato veramente un bel duello. Tra l'altro, Mario, te lo faccio sentire subito, così commentiamo un po' anche la stagione finora di Simoncelli, perché siamo tutti in attesa di un risultato che finora non è arrivato. Sentiamolo, Marco Simoncelli. Lì era uno dei punti più brutti della pista, perché faceva acqua piena anche all'inizio. Ho giocato quel jolly lì e non so come ho fatto a stare in piedi, e infatti lì stavo più attento, poi ero dietro Dovizioso, lì in frenata era un po' più forte di me, quindi ho staccato anche prima del normale per lì, perché insomma già mi ero preso paura cercando di stare attento, e mi sono trovato per terra, da dritto mi ha chiuso e niente, peccato. Peccato sì, e anche a questo punto un Simoncelli che è parecchio giù di corda e di morale, Mario? Sai, Simoncelli, che è stato anche accusato forse esageratamente certe volte, è uno spontaneo, un semplice, quindi non guida da cattivo, guida da ingenuo, e qualche volta corre dei rischi, però questa ingenuità e questa semplicità lo porta anche a deprimersi, come è successo appunto oggi, perché una serie di gare in cui poteva fare grandi cose per un verso o per l'altro, un po' per colpa sua, un po' per colpa del tempo, che so io, la sostanza è che non è riuscito ancora a quantificare concretamente con dei risultati importanti quella che è una stagione cominciata comunque a passo veramente molto veloce. Cioè Simoncelli, se vinceva una di queste gare, sarebbe stata la rivelazione dell'inizio della stagione. Adesso è sempre una rivelazione, però oggi Alonso, andiamo a Formula 1. Sì, ma tanto ci arriviamo adesso. Dovizioso è andato molto meglio. Cioè, molto meglio, quel duello, come tu hai ricordato, tra questi due è stato interessantissimo, oltre che emozionante. E lì Dovizioso ha proprio, nei confronti di un avversario che francamente prima della gara si riteneva più forte di lui, o perlomeno più capace di buttare, come si dice banalmente, il cuore oltre l'ostacolo, invece ha dimostrato un equilibrio notevole Dovizioso, e Simoncelli ha dimostrato una volta di più, purtroppo, che gli manca ancora qualcosina per riuscire a essere solidamente davanti. Però bisogna pensare che molti di questi piloti, soprattutto quelli che hanno tendenza a cadere, come era Stoner, che veniva chiamato Rolling Stoner, Rolling Stoner, infatti, per quello, adesso vediamo che è un pilota eccellente. Quindi anche Simoncelli ha sicuramente davanti un'ottima carriera, anche perché, superate queste burgiane, anche lui ha capito un po' come deve muoversi. Quindi certo, l'esperienza è essenziale. Intanto, Mario, è arrivata anche la seconda manche della Superbike, lo stesso risultato della prima a Misano, vince Cieca davanti a Biaggi. Applausi direi tutti per Biaggi, oltre che per lo spagnolo che ha vinto, ma a Biaggi anche con un infortunio non da poco alla caviglia. Qualche messaggio che arriva al 349-238-6666. Bravo Stoner, tiene famiglia, un brutto sospetto che paghi tutte le tasse al contrario di Valentino Rossi. Questo è il messaggio polemico, ma in fondo anche divertente, di Giovanni. Ma Valentino Rossi non aveva sperato che piovesse, ma i problemi della Ducati a questo punto sono enormi, bisogna ridisegnarla completamente, scrive un ascoltatore che non si firma. E poi passiamo allora alla Formula 1. Certo che a Massa un po' di ottimismo non guasterebbe, scrive quest'altro ascoltatore. Vettel ha un'auto più veloce, ma commette anche degli errori. Insomma, da Montreal, dalla piovosa Montreal, che notizie t'aspetti per la rossa, Mario? Ma dunque, il circuito circuito in sé, la Ferrari è sempre andata abbastanza bene, ha vinto varie volte, insomma anche per esempio mi pare ha vinto 3 volte se ricordo, ma comunque diciamo è un circuito che alla Ferrari è sempre piaciuto. Nel caso specifico poi di questa stagione, dove si sono incrementate sulle macchine avversarie gli effetti aerodinamici, quelli che appunto la Ferrari sta cercando di raggiungere per pareggiare gli altri, ecco gli effetti aerodinamici lì su una pista che è velocità, frenata brusca, curva stretta, l'effetto aerodinamico conta un po' meno perché è fondamentale sui curvoni lunghi e veloci, e lì non essendoci questo problema la Ferrari, che ha sempre tra l'altro avuto degli ottimi freni dalla Brandon, ha sempre studiato dei freni apposta per loro, e dovrebbe fare una buona gara. Adesso, come sempre si dice per la Formula 1, è chiaro che la partenza vuol dire molto. Alonso in queste ultime gare è partito bene anche perché hanno modificato il sistema di partenza della Ferrari, quindi se lui riesce a prendere la testa davanti a Vettel, forse riesce a tenerlo anche dietro, anche se la Red Bull fosse ancora un pochettino più veloce. Si tratta di vedere se Massa gli dà una mano o se gli c'è un problema. Certo, perché se vuole prendersi qualcosa per sé, è sempre molto difficile. La pioggia teoricamente non dovrebbe modificare sostanzialmente la scala dei valori. L'unica vettura che forse, che non è andata però molto bene nelle prove, ma che forse potrebbe trarre un piccolo vantaggio se la pista sarà bagnata, è la McLaren. Però diciamo è tutto aperto, ecco, è la prima volta che si schiera in prima fila la Ferrari, è andata crescendo. Alonso è sicuramente il migliore, se non uno dei migliori, ma io direi il migliore perché ha un'esperienza che per esempio Vettel non ha, quindi io penso che oggi la Ferrari possa fare un'ottima gara. Beh, incrociamo, sai com'è la fortuna in questo caso? Beh, certo, infatti incrociamo le dita. A proposito di uno che la fortuna e ci ha messo del suo, è riuscita a girarla dalla sua parte, sentiamo una battuta di Max Biaggi da Misano. Qualcosa per cento, se no non capiranno. Lui invece è sempre abbastanza comodo e riesce a fare molta differenza. Vedremo, perché insomma qua le quattro cilindri sono molto svantaggiate. Grazie a Max Biaggi. Questo Max Biaggi, microfono di La 7. Professor Poltronieri, allora grazie per essere stato con noi. Chiaramente sarai mi permetterei di fare ancora un brevissimo commento. Si è conclusa la 24 ore di Le Mans e l'Audi con una sola vettura, perché due vetture si sono fermate per incidenti, quindi il nostro Vinto Cappello per esempio non ha potuto guidare perché McNish ha avuto un incidente poco dopo la partenza, anche un'altra macchina e cosa è riuscito lo stesso a arrivare davanti alle Peugeot, che sono i grandi antagonisti che avevano vinto nel 2009, l'anno scorso aveva vinto l'Audi. Direi che ti ho detto tutto. Hai fatto benissimo, perché la 24 ore di Le Mans poi, al di là di chi pur con tantissimi meriti, taglia il traguardo per primo e soprattutto emozione allo stato puro. Allora Mario, grazie per essere stato con noi. A tempo di sport. Eh sì, insomma, lo sentite, ci stiamo un po' divertendo oggi qua con Laura Vanossi in redazione e Valeria Bernardi in regia. Perché? Perché la sigla di Dallas, canzone dedicata a Miami, sentiamo un po' già l'eccitazione per questa notte, per questa gara 6 della finale NBA. Flavio Tranquillo, preparato il caffè direi, no? Tutto il termos, tutto a posto. Questa sera sì, questa notte è obbligatorio. Questa notte, insomma, se ti arriva uno squillo verso le 3:30, diciamo sì, sono tutti quelli della stessa parrocchia, non ti sorprenderai, ecco, siamo noi, ecco. Assolutamente, assolutamente. Senti Flavio, l'ultima volta ci eravamo sentiti durante Palla Spicchia, avevamo pronosticato anche con Carlo Genta un 4-2 Miami, quindi come al solito se dovete fare la schedina non state a darci retta, eh? No, però onestamente questa è una serie di enorme equilibrio in cui sbagliare il pronostico è il minore dei problemi. Il problema è azzeccare il pronostico della prossima partita e questo è particolarmente difficile stanotte. Davvero, però te lo chiediamo per forza, quantomeno quali saranno i 2-3 punti chiave di questa sfida che ha intrecciato storie, protagonisti, episodi, eventi? Ma provocatoriamente mi viene da dire che i punti chiave non sono quelli di cui si parla ossessivamente dall'inizio di questa serie, cioè se i Miami Heat sono simpatici o antipatici, se Dirk Nowitzki merita o non merita, ovviamente lo merita come Jason Kidd, come Sean Marion, come gli altri veterani, a livello morale è una soddisfazione, se quanti punti segna Tizio nel quarto periodo e quanti non ne segna Caio, sono tutte cose che sicuramente hanno un minimo di fondamento, però questa è una serie particolarmente complessa, particolarmente dipendente dalla quantità elevatissima anche rispetto al solito di aggiustamenti e controaggiustamenti tattici, e quindi vince chi riesce a imbroccare l'ultimo aggiustamento o la risposta all'ultimo aggiustamento degli avversari. Ancora di più, tutti pensano che Miami abbia perso in attacco gara 5, ma ha fatto 103 punti. Normalmente Miami facendo 103 punti vince 200 partite su 100, questa l'ha persa perché ne ha preso 112. Certo, poi quando vai oltre i 90 c'è buona possibilità che la partita la porti a casa Dallas, sempre e comunque, insomma, per attitudine, perché affronti un'altra sfida. A proposito di sfide decisamente meno equilibrate ma altrettanto interessanti, gara 1 della finale scudetto Siena-Cantù, che messaggio lancia? Perché oggi ho visto commenti positivi sulla tipologia della partita, sulla stessa prova di Cantù, ma alla fine sono 25 punti di scarto. Sì, sono 25 punti di scarto e non può essere casuale. Il discorso è che se Cantù pensa di poter giocare una partita tra virgolette convenzionale e vincere in questa serie, si sbaglia. Non credo che lo pensi, ma più o meno quello che ha fatto, secondo me. Ha giocato un primo tempo offensivo straordinario, però ha concesso 55 punti agli avversari con 70%, e appena è diventato da straordinario a normale l'attacco è venuto meno alla possibilità di giocare per vincere. I 25 sono anche piuttosto fuorvianti, però il discorso è che secondo me non l'ha persa certo negli ultimi 6 minuti la partita Cantù, ma l'ha persa anche qui, se vogliamo fare un po' il paradosso, nei primi 6, quando segnava ogni azione, giocava in maniera straordinaria, ma faceva quello che in America si chiama trading baskets, ovvero sia segna tu che segno io, che soprattutto a Siena è assolutamente da evitare se vuoi avere una chance. Beh, allora, insomma, vedi che poi le finali NBA con quelle italiane qualche cosa in comune, qualche punto di contatto ce l'hanno. Flavio, intanto grazie per averci fatto compagnia, ti ritroviamo forse già domani per commentare qualcosa, staremo a vedere. Volentieri, poi vediamo cosa. Infatti, intanto grazie. Allora, qualche minuto adesso dedicato al calcio. Beh, non ce ne vogliano i tifosi patavini, ma insomma questo è l'inno del Novara, perché stasera Novara-Padova, si parte dallo 0-0, si decide l'ultima squadra che salirà in Serie A, e il Novara inevitabilmente è avvantaggiato dal fatto che comunque un pari le basterebbe per tornare in Serie A. È una sfida che suscita emozioni, anche dubbi, perché chissà quanto poi i risultati acquisiti sul campo varranno alla luce di Scommessopoli, ma in questi ultimi 3 minuti ci risparmiamo il capitolo scommesse. Valentina Ballarini dalla redazione di Sport Italia, benvenuta, diccelo subito, passa al Novara o sarà impresa Padova? Tu che la Serie B la conosci, insomma, decisamente meglio di chi ti sta parlando. Ci sono, ciao Dario, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, dico Novara, perché non solo insomma il vantaggio del fattore campo, della classifica acquisita alla fine della stagione regolare, di questo terzo posto che con 4 pareggi ti consegna la Serie A, non solo per questo, ma perché in casa, sul sintetico, al Piola, di fatto il Novara ha perso soltanto una volta nell'ultima giornata di campionato della stagione regolare, ovvero alla 42esima, quando i giochi erano fatti contro il Modena. La stessa cosa era capitata lo scorso anno, quando il Novara con 3 giornate d'anticipo aveva acquisito la promozione in Serie B, per cui corsi e ricorsi storici. E poi sinceramente perché il Novara recupera un giocatore che ha gamba, che sta bene, Cristian Bertani, che può fare la differenza e può permettersi, la squadra di Tesser, di giocare sinceramente di rimessa. corsa in velocità, perché è il Padova che è costretto a fare la partita, è il Padova che deve rimontare, che deve vincere. Per cui insomma, per una serie di fattori, dico Novara, in più non solo recupera Bertani ma recupera anche Morganella. Certo, vedi, insomma, a destra è lui il capitano al centro della difesa, e qualche giocatore del Padova, vedi Cuffa e Bovo in mezzo al campo, mi sembrano un po' stanchi. Poi però ci dice la tradizione che il Padova è esperto nelle rimonte. Ma sì, e poi non sottovalutiamo il fattore El Shaarawy, perché forse potrebbe farlo saltare lui questo banco. No, sicuramente, certo è che non so se hai visto il match d'andata, El Shaarawy è stato limitato benissimo dalla squadra di Tesser, che raddoppiava sul talento di origini egiziane, un classe 92 strepitoso, probabilmente insomma il miglior 92 che abbiamo in Italia, che può fare la differenza. Però raddoppiato, El Shaarawy ha perso le sue potenzialità e ha perso il grado di pericolosità in attacco, anche se di fatto i tiri in porta, diciamo, i più pericolosi li ha fatti lui, escludendo poi il colpo di testa di De Paola che è andato sul palo. Però El Shaarawy, vista l'andata a Lugano contro il Novara, non è stato ad esempio quello ammirato nel ritorno della semifinale playoff contro il Varese, dove fu devastante all'Ossola con una doppietta e con tanti assist e con tante giocate. Però di certo è il giocatore del Padova, El Shaarawy, insieme al regista, al metronomo Vincenzo Italiano, che possono fare la differenza per la squadra di Dal Canto, che comunque insomma ha fatto già un'impresa secondo me ad essere arrivata in finale, nonostante la grande qualità che ha in rosa. Però sai, fare 14 risultati utili consecutivi, non perdere mai e lanciare il Padova in finale, secondo me è un'impresa non da poco, considerando che Dal Canto arrivava dalla primavera. Assolutamente. Allora, il pronostico di Valentina Ballarini, esperta della Serie B di Sport Italia, è Novara. Io non ci scommetto, ma non per altro, ma perché non mi sembra il periodo. Intanto grazie Valentina per essere stata nostra ospite, grazie a Valeria Bernardi in regia, a Laura Vanossi in redazione. Io vi tengo compagnia anche nei GR delle prossime edizioni, e quindi buon pomeriggio, a ritrovarci.